purtroppo di pretesti per accelerare appunto le operazioni di sgombero dei Rom, ai quali però insomma viene negata qualsiasi alternativa valida di sistemazione nella città. Noi ne parliamo brevemente con Irma, che sta dall'altro capo del telefono. Ciao Irma. Buongiorno. Buongiorno. Allora, chiaramente tu insomma ti sei occupata di questa vicenda proprio due giorni fa. No, perché io abito proprio qui vicino, e poi un po' io ho preso contatto, no, con queste persone. Chiaro. Premetto che nel 2009 praticamente abbiamo raccolto anche delle firme a favore del piccolo campo che era via Massimo Campigli contro i sgomberi senza alternative. E dopo di lì insomma si sono verificati diversi sgomberi e praticamente si sono spostate queste famiglie in via Severini. Poi con i diversi praticamente sgomberi che ci sono state nella città, mano a mano sono diventate poi 200 famiglie, cioè 200 persone, tra anche compresi i bambini. Io volevo fare un po', come si chiama, un aggiornamento, insomma aggiornare, perché poi si fanno grandi titoli, sgomberato campo Rom, e poi non si sa, cioè non si dà poi seguito praticamente, notizie rispetto a come poi vanno a finire queste cose, anche se si presume insomma. Praticamente a queste famiglie è stato dato praticamente soltanto l'accoglienza per le donne e i bambini, che si sa ormai sono anni che loro rifiutano lo smembramento della famiglia, insomma, che mi sembra anche giusto. In pratica dopo praticamente le dichiarazioni del sindaco Alemanno, dopo che praticamente i bambini, come si chiama, del campo dove sono morti bruciati, aveva fatto dichiarazioni che questi campi praticamente abusivi venivano immediatamente messi in sicurezza, si davano subito delle soluzioni, che invece praticamente hanno passato tutto l'inverno questi campi abusivi, sono rimasti insomma dove stavano, e adesso sono iniziati da un mese a questa parte, sono iniziati questi sgomberi, che poi sono sgomberi non con preavviso, non è che vanno lì perché, cioè vanno praticamente a parlare con queste persone, perché e magari sentire le loro esigenze, oppure dare una, come si dice, una soluzione abitativa attiva al campo, no? Visto che poi c'è pericolo in questi campi, di pericolo per i bambini, insomma, e anche fastidio poi, cioè questi campi poi stanno sempre in periferie dove ci sono già problemi grandi, e ovviamente crei anche disagio insomma alla popolazione vicino, perché non avendo poi l'acqua, i servizi, tutte queste cose qua, nonostante loro poi facciano il possibile insomma, perché non è che si mettono, almeno questi, cioè questi che io conoscevo qui via Severini, non è che chiedevano l'elemosina, sì, in pratica non avendo questi servizi era sporco. E quindi pronto? Insomma, sì, ci siamo, no? Dopo lo sgombero, no, praticamente insomma, volevo dire, sì, aggiornare che dopo questi sgomberi praticamente non avendo accettato la soluzione del CAR per le donne e i bambini, queste famiglie poi si sono, come si dice adesso la parola, che dispersi, si sono dispersi di nuovo la città, e quindi chi aveva la possibilità magari di avere un'altra possibilità e gli altri hanno vagato qui intorno dormendo insomma nel parco qua vicino, e non è stata data nessuna soluzione. È questo praticamente, allora, tutta l'emergenza che si era chiesta per piano nomadi da parte del comune, che voleva risolvere in questa maniera, cioè si sono adoperati questi praticamente soltanto per fare sgomberi che poi non risolvono il problema, ma vanno invece a intaccare i diritti di queste persone, perché sono persone, e finché non vengono considerati tali non si vuole trovare nessuna soluzione, soprattutto il diritto dei bambini, delle famiglie, di essere considerate al pari delle famiglie, insomma di tutte le famiglie nostre italiane. Eh beh, certamente, insomma, dici bene tu, si tratta di operazioni più che altro reclamistiche che vengono imposte, insomma, anche a livello mediatico, tanto per far vedere sì. che si fa qualcosa, e quello che si fa chiaramente colpisce no, ma i più deboli. È grave, che certo praticamente che è grave. Si dà allora la cosa, il progetto Piano Rom, è come se si volesse veramente trovare una soluzione, no? Perché poi questi campi piccoli, microcampi, si sono poi formati con i diversi sgombri che ci sono stati durante questi anni, gli anni anche passati, insomma, perché non è che anche l'altra giunta abbia fatto granché. E premetto che poi i campi, anche quelli, diciamo così, come si dice, autorizzati, salone, anche lì hanno le loro problematiche. Senti, tra l'altro, insomma, ci sono ecco, stati... Ecco, io volevo aggiornare praticamente sapere, volevo chiederti una cosa, questi perché... sgomberi che cosa hanno portato. Hanno portato soltanto la notizia mediatica e non hanno risolto il problema. Soprattutto hanno leso i diritti delle persone. Ieri, tra l'altro, si è verificato anche un incendio lì in via Severini, le cui origini... Ah, dopo lì, sì, ma era, cioè, tutti, come si chiama, erano tutte le cose che avevano distrutto, le baracche, le cose, però non si sa chi sia stato, cioè, anche se poi hanno detto che forse l'hanno fatto loro a dispetto, ma non credo, perché loro avevano altri problemi di trovare, insomma, un posto dove dormire. È chiaro, beh, insomma, tra l'altro questa vicenda si intreccia anche con la scarsa chiarezza che c'è relativa ai diversi centri che in questo periodo sono tra l'altro investiti anzi anche della cosiddetta emergenza sbarchi, per cui insomma c'è anche una questione di ambiguità, di indefinita, insomma, riguardo ad esempio il centro di Castelnuovo di Porto, che dovrebbe allora, funzionare per richiedenti Porto, asilo. Erano praticamente disponibili 200 posti, che se tutti quanti, tutte le donne e i bambini si avessero accettato dei diversi campi, non ci sarebbe stato posto per nessuno, cioè non neanche 200, meno di 200, quindi non ci sarebbe stato posto. E poi che cioè pure questo modo di agire, no? Se tu devi mandare donne e bambini là, ma vai prima a parlare, contratti con loro, senti, dai fiducia, non è che uno si può presentare alle 7 di mattina e ancora i bambini dormono, le famiglie, presentarsi con tutto lo schieramento, polizia, cosa, a dire i documenti, preparate i bagagli, queste sono le cose, volete andare qui? No, bene, allora via e andate. Cioè, ma si acquista fiducia? No. Allora una mamma e una bambina, cioè io ho parlato con queste donne, la paura loro è che smembrandosi dalla famiglia gli possono togliere i bambini. È certo. Questo, non hanno, cioè tu non puoi dare fiducia. Qui l'unica cosa è che fai questa cosa sapendo che viene rifiutata questa proposta e ti liberi del campo, però sul giornale esce sgomberato campo via Severini 200 persone, sgomberato 250 a Miralanza, cioè in un giorno ne hanno fatti due. E poi rimane il fatto che Castelnuovo di Porto, insomma, era più che altro era un centro per richiedenti asilo, un cosiddetto CARA, sì, quindi no, anche la natura sì, giuridica di questi asilo. Luoghi hanno tolto alcuni che già si erano, come si dice, già fatti nel sì, che si erano inseriti, insomma, all'interno inseriti, anche della comunità stessa di Castelnuovo. E poi non hai, cioè tu fai queste cose proprio, questo non è una è un cioè risolvere il problema, queste sono operazioni di polizia e per me è polizia, cioè sono operazioni di pulizia etnica. Ecco. Senti, va bene, va comunque io volevo Irma. Dare praticamente l'aggiornamento perché sembra che poi no, sgomberato il campo si è risolto, no, si è risolto per chi? Non per le famiglie, per i bambini, e comunque sia il problema di l'inserimento di una cioè di queste persone non potrà mai avvenire, perché vengono rifiutate praticamente. Poi premesso che i Rom sono all'ultimo gradino, insomma, della certo. delle persone tollerate. Irma, noi ti ringraziamo. Insomma, visto che stai seguendo la vicenda e ti trovi tra l'altro anche geograficamente vicina e attenta, insomma, per dargli continuità a questo tuo seguirla, magari ecco, ci tieni informati anche su quanto accade comunque nei prossimi penso giorni. Che poi dopo la cosa il sindaco non so se poi l'ha ricevuto questi soldi per francamente non lo sappiamo neanche noi. È una richiesta che è stata fatta a febbraio, questa dei 30 milioni per il piano Rom, ma di fatto certo, insomma, se ecco, sono stati utilizzati per fare questi tipi di sgomberi. Ecco, questa è una cosa che andrebbe verificata, è una cosa che andrebbe verificata. Io comunque faccio sapere, perché bisogna veramente lottare contro l'indifferenza, perché l'indifferenza è quella che sta distruggendo un po' tutto. D'accordo, grazie Irma, ciao, buongiorno. Buongiorno, ciao, buongiorno. Un milione di stoffagnaccio brucia, lo ritmo quando te zicca.